Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno a tutti, Fabbrica 2.4. Questa puntata è dedicata al tema del mercato dell'auto e del mercato dei componenti auto, che negli ultimi mesi è stata una vera sorpresa, proprio un traino dello sviluppo manifatturiero italiano. Quell'1% di produzione manifatturiera positiva nei primi sei mesi del 2015 incorpora un incremento di auto e componentisti del 44,9%, un dato veramente molto importante e quasi inatteso. Certo, si cresce da livelli bassi, perché la Fiat fa circa 500.000 veicoli attualmente e invece in passato i tempi belli ne faceva 1 milione, 1 milione e mezzo, però insomma più 44,9%. Più forte ancora della produzione di veicoli è la produzione di componenti. La componentistica auto ormai in Italia vale forse di più dell'auto in se stesso. Parliamo di 3.200 aziende, 275.000 dipendenti e 88 miliardi di euro di valore. I nostri interlocutori sono Stefano Aversa, consulente di chiara fama e vicepresidente mondiale della società Alix Partners, nonché coordinatore per l'Europa, una vera autorità nel mondo dell'auto. Buongiorno. Buongiorno a voi. E Andrea Dell'Orto, che ha un'azienda che porta il cognome della sua famiglia, la Dell'Orto S.p.A., che fa componenti e sistemi di iniezione e carburatori per le auto e per le moto. Nel mondo delle moto, Dell'Orto è presidente del gruppo componentisti dell'ANCMA, che vuol dire Associazione Nazionale Componentisti Moto e Auto. È anche un esperto di manifatturiero, essendo presidente di Confindustria Monza e Brianza. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, in Italia ci sono state anche da segnalare più 15,2% di vendite di auto nel primo semestre, più 22% anche in Spagna, più 6% nella Francia, più 5,2% nella Germania, più 7% nel Regno Unito. Insomma, gli europei e in particolare gli italiani sembrano correre a farsi la macchina nuova. Lei che cosa ne pensa, Aversa? Ma direi che l'Europa era previsto che riprendesse lentamente e che il Sud Europa in particolare riprendesse più rapidamente da livelli molto, molto bassi, e questo sta succedendo. Siamo a livelli comunque molto, molto più bassi dei picchi. Se continuiamo questo ritmo arriveremo a circa 1,5 milioni di auto in Italia, che sono comunque molto meno dei picchi di 2,4 milioni che sono stati raggiunti. Però mi sembra una buona partenza. Lei che cosa ne pensa Dell'Orto? Ma esattamente così, nel senso che c'era attesa per questa ripresa in Europa che c'è stata, trainata anche dalle scelte giuste di alcuni costruttori, FCA in primis, che avendo finalmente ampliato la gamma e grazie all'accordo con Chrysler e al marchio Jeep sicuramente ha avuto un rilancio e un ruolo importante, e ovviamente l'Europa nella crescita sta avendo un ruolo importante, molto meno invece altri paesi tipo il Brasile. Ma come mai, nonostante la crisi, gli italiani sembrano avere riscoperto la passione di farsi non solo l'auto nuova Dell'Orto, ma anche la moto nuova? Perché pure il mercato delle moto ha fatto più 15%. Ma qua la moto, secondo me, è un po' diverso il discorso, nel senso che la moto ha avuto una crisi drammatica, ben più grave di quella dell'auto in Europa e soprattutto in Italia, e quindi ha toccato dei livelli molto bassi. Quindi il mercato europeo, diciamo, in termini numerici non è più un mercato così significativo, però è un mercato trainante in termini di tecnologia, di passione e di tutto quello che è legato poi al mondo del racing. Quindi sicuramente la ripresa è legata a questi motivi, nel senso che comunque la passione per la moto non è mai finita. Quest'anno ci sarà un salone della moto molto importante che dopo anni vedrà il tutto esaurito, addirittura delle liste d'attesa dei partecipanti, quindi sicuramente un segnale positivo, perché poi può trainare anche i mercati esteri, dove invece la vendita di moto e i volumi di moto sono sicuramente più significativi di quelli europei, intendo l'Asia e altri paesi simili. Ecco Aversa, ma una ripresa della produzione industriale che dipende in larga parte dall'auto, che prima o poi toccherà un tetto, perché insomma prima o poi gli italiani finiranno di comprare macchine nuove, perché tutti quelli che la possono comprare ce l'avranno, ecco, non è fragile? No, direi di no, perché l'auto è, come altri beni semidurevoli, un bene che va sostituito, perché ha una durata limitata nel tempo. Un'auto ha mediamente tre vite, una vita diciamo da nuova, una vita da usato e una terza vita da usato, tipicamente in paesi emergenti, se parliamo di noi, Nord Africa o paesi dell'est. Quindi è come il mercato delle lavatrici e dei frigoriferi, hanno una vita in quel caso un po' più lunga, ma direi che è una crescita, che è un ripristino di valori, non ancora i valori fisiologici, ma vicino ai valori fisiologici. Teniamo molto presente che l'Italia è anche tra i paesi che hanno la più alta penetrazione in termini di numero di vetture per abitante, quindi da questo punto di vista il nostro mercato è un mercato saturo quasi esclusivamente di sostituzione. Ecco, beh, però adesso si stanno diffondendo forme tipo il car sharing, le auto in affitto, varie applicazioni che consentono di utilizzare l'auto solo per il tempo necessario e quindi rendono superfluo l'acquisto dell'auto, e questo forse potrebbe cambiare il mercato, secondo lei, Aversa? Sicuramente porta a qualche cambiamento. Noi abbiamo studiato il mercato del car sharing, che ha un particolare appealing in Europa. Per fare un paio di cifre, diciamo che nel mondo ci sono circa 5 milioni di membri di club di car sharing, e questi l'anno scorso contro 92 milioni di auto sono stati venduti. Ora ogni membro è chiaro che riduce le potenziali vendite, ma è anche vero che le auto condivise vengono usate di più e quindi vengono sostituite più facilmente. Quindi diciamo che i valori che ci sono oggi sono valori, e per i prossimi 5 anni stiamo parlando di arrivare nel 2020 a circa 26 milioni di membri nel mondo. Sono valori ridotti a livello mondiale. Sono valori molto, molto ridotti ancora a livello mondiale. Detto questo, è un modello che funziona. Se guardiamo Zipcar, che è uno dei modelli internazionalmente più ampi, non solo si è sviluppato, ma oggi è uno dei pochi, diciamo, modelli della nuova economy che fa soldi, quindi è inutile già dal 2010. Adesso vorrei parlare di quello che è successo con la Volkswagen, che potrebbe non solo toccare il mercato mondiale, ma anche il mercato italiano dei componentisti, perché si dice che sulle auto tedesche c'è almeno un 10% di made in Italy, perché i freni, i sistemi di iniezione, i carburatori, le gomme e quant'altro sono tutte made in Italy. Allora ci si chiede se la Volkswagen conoscerà uno stop, e magari anche la BMW. Voi componentisti dell'orto avete qualcosa di cui preoccuparvi? Ma non è semplicissimo, e non è un'equazione così netta questa situazione, col fatto che poi realmente abbia delle ricadute dirette. Di sicuro non è positivo sia per la reputazione di Volkswagen, ma anche per diciamo il futuro dei motori diesel, e sappiamo che la componentistica italiana, noi stessi ad esempio, lavoriamo molto sul motore diesel, quindi quello che mi preoccupa di più è il rischio di compromettere la reputazione, quindi di conseguenza le vendite in generale dei motori diesel. Ecco, ma lei questo rischio lo vede probabile, possibile? Sinceramente io non lo vedo così probabile, anche se il vero tema è gestirlo al meglio. Quindi... Ma non è magari un'opportunità, perché se ritirano tutte queste auto poi devono produrne di nuovo, allora lei vende più carburatori, più sistemi di iniezione? Sì, nel transitorio potrebbe essere un'opportunità in questo senso, e anche magari per i competitors di Volkswagen, ma penso, conoscendo poi i tedeschi e quando si fanno questi errori, così straordinari, e sicuramente si troverà il modo di gestirlo al meglio e di cercare di arrivare a un'opportunità da un grosso problema che è qual è oggi. Ecco, ci interrompiamo per una pausa, restate con noi. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presento Fabbrica 2.4. Fabbrica 2.4, stavamo intervistando Andrea Dell'Orto e Stefano Aversa, che sono due esperti del mercato dell'automotive e dei componentisti auto, per spiegare come è stato possibile questo fortissimo sviluppo del settore che c'è stato negli ultimi sei mesi e quali conseguenze potrà avere. Ecco, in particolare Dell'Orto è un componentista, lui produce sistemi di iniezione carburatori ed è anche presidente dei componentisti di Confindustria ANCMA, e la sfida maggiore per loro è affrontare il mercato dell'internazionalizzazione, cioè vendere ancora di più all'estero, anche se ormai tre quarti del fatturato sono all'estero. Ci sono opportunità secondo lei? Ma sicuramente sì, perché comunque lo sviluppo dell'automotive, quindi non solo auto ma anche moto, va sempre più verso nuovi mercati, quindi sicuramente c'è un rafforzamento, un rinnovamento del mercato europeo, e quindi le produzioni europee rimarranno magari con delle tecnologie nuove e diverse. Sui nuovi mercati invece c'è delle grandi opportunità. La cosa positiva di un mercato automotive è che i grandi costruttori tendono ad andare a produrre in loco per occupare i mercati e quindi vanno a trainare con sé poi i componentisti principali, e quindi oggi molti dei componentisti medio grandi ma anche medio piccoli vanno a localizzare le produzioni magari in India, in Cina, piuttosto che in Brasile, in altri paesi, per seguire il cliente e quindi aumentare il proprio volume d'affari, cosa che non potrebbero fare se continuassero a produrre semplicemente in Italia. Quindi vuol dire che il settore dei componentisti auto italiani ha ancora ulteriori margini di sviluppo. Sì, può crescere ancora e bene. Può crescere ancora molto, secondo me, su certi mercati. Ovviamente dipenderà anche dall'evoluzione dei mercati, perché ci sono dei mercati ancora rimasti più al mezzo di trasporto a due ruote, come può essere l'India, e quindi che avranno uno sviluppo futuro eccezionale sulle quattro ruote, degli altri mercati invece che hanno già avuto uno sviluppo straordinario sulle quattro ruote, nonostante che si pensi alla Cina semplicemente come un mercato tipo l'India, ma di fatto è un mercato straordinario già per le quattro ruote. Quindi bisogna saper cogliere questa opportunità. È ovvio che diventa impegnativo, perché comunque bisogna investire, perché localizzare, fare una fabbrica nuova all'estero non è come esportare, quindi vuol dire impegno, risorse, uomini, capacità, tecnologia e volontà di farlo. Ecco, secondo lei Aversa, come sta andando il mercato dei componentisti, in particolare di quelli italiani? I componentisti italiani, per assurdo, con il calo che c'è stato negli anni dell'auto, in particolare della produzione italiana, sono stati obbligati ad andare all'estero di più, e questo li ha fatti crescere in competitività. Oggi la componentistica italiana è sicuramente più competitiva, ha recuperato quote di mercato ed anche dal punto di vista tecnologico sicuramente ha qualcosa da dire, in particolare in alcuni settori. Viene da citare la Brembo, la Sogefi, tutto il mondo della quella si è chiamata la Motor Valley, nella zona diciamo di Modena, dove ci sono in particolare le auto sportive. È certo che diciamo il grosso continua a essere concentrato in Germania e nei paesi dell'est limitrofi, dove il grosso del valore della produzione, nel caso della Germania, anche della ricerca e sviluppo, succede. Ecco, Dell'Orto, lei ha recentemente ristrutturato con successo la sua azienda, posizionandola maggiormente sul maggior valore aggiunto e anche sul mercato dell'auto. La Dell'Orto SPA era nota soprattutto per le moto, in particolare per i motorini della generazione di quelli che oggi hanno 40-50 anni. Mettere su un carburatore Dell'Orto era una grande figata. Poi adesso invece fate carburatori e iniettori per la Volkswagen, per la Audi in Germania. Ci può raccontare come è avvenuto questo riposizionamento? Sì, diciamo, A noi è accaduto un po' quello che diceva la dottora Versa prima, nel senso, al di là del cambio di tecnologia che è accaduto ben prima della crisi, quando c'è stato il passaggio obbligato della tecnologia dal carburatore ai sistemi di iniezione, quindi di fatto le auto sono già iniezione dai primi anni 90 e le moto hanno iniziato ad esserlo e quindi il carburatore rimane solo sui cinquantini e poco altro. La crisi invece ci ha di fatto spinto non solo a ristrutturare la nostra realtà italiana, europea, ma a investire, quindi investire vuol dire in nuovi prodotti, in nuove tecnologie, ma anche in internazionalizzazione, aprendo ad esempio una fabbrica nuova tutta nostra in India, quindi andando a cogliere opportunità di mercato, e per noi accrescendo moltissimo la parte auto, perché di fatto, come dicevo prima, l'Europa, il mercato della moto si è sempre più ridotto, quindi siamo entrati sempre di più sull'auto, trainati anche da clienti importanti come i tedeschi, BMW in primis, per noi siamo un cliente storico, e oggi ci sono delle condizioni per noi favorevoli perché abbiamo puntato molto anche su FCA, e oggi FCA soprattutto sulla parte, sulle piattaforme diesel, sta andando molto bene, trainata anche da Chrysler, quindi dal 2013 in poi sicuramente siamo diventati molto più competitivi, e lo dicono anche i numeri, nei fatti, soprattutto dal 2014, e quest'anno siamo in continua crescita. Quindi, insomma, FCA ha favorito molti componentisti italiani andando a trasferirsi negli Stati Uniti e fondendosi con Chrysler, perché ha consentito un più facile accesso a quei mercati? Sì, ma non è solo il trasferimento di produzioni negli Stati Uniti o in Messico o in Brasile, che peraltro il Brasile adesso non è neanche un mercato in così forte espansione. Il punto è che proprio li ha trainati aumentando radicalmente i volumi, cioè ha delle piattaforme, io mi riferisco ai motori perché vedo i motori al di là poi dei modelli delle auto, delle piattaforme che negli ultimi 12-18 mesi sono andate a raddoppiare i volumi di produzione, e questo producendo tranquillamente anche in Italia, perché comunque non dimentichiamoci che la maggior parte dei motori diesel Fiat li produce a Prato La Serra, quindi non è che li produce in India, quindi sicuramente il fatto di avere raccolto i frutti di una nuova politica commerciale e industriale abbinata al brand Chrysler e Jeep è stato molto importante. Insomma, Marchionne ha visto giusto? Molto giusto, secondo me. E lei che cosa ne pensa, Versa? La scelta è stata una scelta quasi obbligata, nel senso che produrre in Europa dell'Ovest in maniera competitiva è possibile solo per l'alto di gamma, quindi questo è quello che nel tempo quello che sta facendo, perché siamo ancora forse a meno di metà del guado in termini di Alfa Romeo, è appena iniziata la nuova avventura, però è già iniziata quella, invece sta andando molto bene quella della Jeep, e anche il marchio 500, che ormai è un marchio a sé, è stato sicuramente un successo almeno in Europa, e questo si sta espandendo un po' anche sulla falsariga di quello che è successo per la Mini, ed ha portato a un notevole recupero di volumi, in particolare a partire da quest'anno, e speriamo anche per l'anno prossimo. Ecco, Aversa, lei ha la possibilità di avere un osservatorio privilegiato perché è al vertice di una società di consulenza presente in tutto il mondo. Secondo lei, quali saranno le conseguenze del recente scandalo Volkswagen? Le conseguenze di breve sono sicuramente, per quanto riguarda la Volkswagen in senso stretto, perché sono le conseguenze per adesso riguardano solo questa casa automobilistica, la Volkswagen intesa come gruppo, è sicuramente un blocco delle vendite in alcuni paesi, certamente l'America, è stato imposto anche in Svizzera, e non mi meraviglierei se succedesse in altri paesi. Il secondo è naturalmente i costi dei richiami, della campagna di richiamo, stiamo parlando di 11 milioni di vetture, è una campagna molto molto importante, anzi direi la maggiore che sia mai stata fatta nella storia, almeno che io mi ricordi. Ma è quasi una fortuna per chi ha un'auto Volkswagen, si fa l'auto nuova. No, direi di no, direi che è sicuramente soltanto un cambiamento software che sarà fatto. Ah, gli cambiano solo il software? Io pensavo che no. Campagna di richiamo, uno ha una vecchia Volkswagen che fa emissioni, gliela dà indietro. No, sarebbe troppo bello. bello, no? Sarebbe troppo bello per i clienti, sarebbe un bagno di sangue per la Volkswagen, lo sarà comunque molto costoso. E poi ci sono tutta una serie di conseguenze che possiamo già immaginare, per esempio negli Stati Uniti sono già più di 30 le class action che si stanno preparando. Ecco, ma per il mercato dell'auto in generale e per i componentisti italiani invece? No, io non mi aspetto francamente nel lungo termine, come diceva anche Dell'Orto, non mi aspetto dei cambiamenti. La Volkswagen non solo ha le spalle grosse, ma è anche un'azienda estremamente solida, e come ho visto in passato anche in altri settori, come nel caso di BP o anche nel mondo dell'auto, Toyota e General Motors, per problemi che peraltro hanno causato in quei casi anche dei morti, direttamente o indirettamente, anzi direi soltanto indirettamente, in questo caso la cosa verrà superata se continueranno come hanno iniziato a fare, dando piena trasparenza e collaborazioni. Mi aspetto che verrà superata, ci vorranno sicuramente dei mesi, ma la coda di degli aspetti, diciamo, legali potrà durare anni. E certo, ma però sul mercato dell'auto cambierà poco o nulla, insomma. Alcuni immaginavano che gli americani potessero avvantaggiarsene a spese dei tedeschi. Ma è una cosa che sicuramente verrà impattata e potrà cambiare anche nel più lungo termine, è il diesel in America, che ha sempre trovato difficoltà sia di tipo culturale sia di tipo normativo. Poi si può speculare se le normative sono state o meno spinte dai lobbisti americani, ma teniamo presente che mentre in Europa oggi il diesel è il 55% circa delle vendite, in America è circa il 3% delle vendite, di cui la buona parte lo fa la Volkswagen. Beh, insomma, allora la Volkswagen è il 25%, quindi questo sicuramente verrà impattato nel breve e forse anche nel medio. Però insomma i nostri componentisti possono dormire sonni tranquilli, e questo ci fa piacere a tutti. Ecco, la trasmissione volge al termine, ringrazio Andrea Dell'Orto per essere stato nostro ospite. Grazie a voi. Ringrazio Stefano Aversa, che ritroveremo in una puntata monografica che dedicheremo al mondo dell'auto intervistando lui. Grazie dottor Aversa. Grazie a voi, a presto.